fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Resto Radio Convento, eccoci qui, benvenuti. Come già diciamo da qualche settimana, abbiamo aperto questo spazio domenicale, questo nuovo spazio domenicale in cui approfittiamo anche della radio per farvi conoscere alcuni clienti, alcuni amici che passano a trovarci. E abbiamo qui due ragazze che sono nei nostri studi, che abbiamo chiamato in tanti modi durante la serata, e adesso dobbiamo capire come chiamare. Quindi decidete voi come presentarvi nei vari modi in cui vi siete presentate durante la serata. Buonasera, io sono Katia. Ah, sempre così. Io sono Valeria. Niente, avete mantenuto il Katia Valeria. Chi è Katia e chi è Valeria? Valeria da Brescia e Katia da Salerno, che vive a Brescia. Katia da Salerno e Valeria da Brescia. Bene, bene, non senti? Non sento la mia voce, non sento in cuffia. Tu senti qualcosa? Meglio così. Davvero non senti nulla? Ah, adesso non sì. Io non sento nulla. Non mi sento. Ah, adesso sì. No, ah, okay. Era un po' basso. Adesso mi sento. Oh, meglio, meglio. Adesso meglio. Mi spiace per gli altri che debbano sentire gli altri. No, figurati, figurati. Allora, ragazze, benvenuti. Intanto, prima volta che venite o siete abitué? È la prima volta, seconda volta. Prima volta, seconda volta. E dicono che non si scorda mai. La prima volta, quindi sarà cliente fissa tutte le domeniche. Si torna la seconda volta. Allora, bisogna capire se per Katia, quindi, è vero che non si scorda mai. Confermi? Cosa? La prima volta. Non si scorda? Ah, certo, sì, non si scorda. Quindi è andata bene, ok. Valeria, benissimo. Invece la tua prima volta era andata bene, sì. Sono tornata. Meglio, però eri sola la prima volta? No, ero in compagnia di amici. Di chi? Voglio saperlo. Ma erano sbagliati, era una compagnia sbagliata. Questa è la compagnia giusta. Esatto. Questa è la con compagnia. Con Katia, la compagnia femminile. È un'altra certo, cosa, un'altra cosa. Katia. Poi c'ha le maniche d'oro, Katia, cioè, certo. Insomma, quindi come si fai? Può notare, come appunto. Fai? È come in pandan fai? Con la location. Con la location? Esatto. Vedi, cioè, lei lo sapeva dove doveva venire e certo. si è abbigliata per l'occasione. Certo. Come farsi notare, no? Sì, anche. Allora, ragazze, cosa fate di bello nella vita? Oddio, dobbiamo proprio dirlo? Se volete, no, dai, non lo dico. Lo diciamo? Mi rovino. Ci roviniamo. Oh my God. Tanto hai già detto un nome falso, quindi... Ah, sì, certo. No, Katia. Che facciamo? Katia, Caterina. Allora, io lavoro con i disabili, si sente. Educatrice? Sì, vero, si sente, sì. Bello. Ho fatto l'educatrice, sì, adesso sono disoccupata. Aia, perché quindi lancio un appello a tutto il mondo. Vai, vai, cercasi lavoro per Katia. Io cerco un lavoro anche qui in radio, in ladio. Beh, potresti andare in Cina, dove le ladio vanno forte. Le ladio vanno, dici? In Cina le ladio vanno. Vanno folte? Le vanno folte, bene, esatto. Bene. Mentre qui in Italia vanno le radio, quindi in base a dove vuoi, al paese che ti piace di più, puoi scegliere cosa fare. No, ma scusa, come ti chiami tu? Nicora. Ah, Nicola? No, Nicora. Nicola. Nicora, perché siamo in Italia, quindi Nicora. E vieni dal Giappone, se allora. Se fossimo in Giappone sarei Nicola. Ah, bene. Potrei farti da spalla, certo. Visto che cerco un lavoro. Beh, mi servirebbe una terza spalla, effettivamente, perché queste fanno male ogni tanto. No, la terza gamba. No, la terza gamba no, la terza cesta, bene. No, perché la terza spalla. No, la terza gamba cesta, bene. Sei una bella coppia, funziona, sembra. Funziona quando serve, sì. Ah, ma c'è anche la Valeria stasera. No, no, ma vi lascio conversare, vedo che è interessante questo argomento. Sì, perché siamo di Conversano e quindi dobbiamo conversare, appunto. Perché la Valeria non cerca lavoro, adesso no. Lascio spazio a lei, alla mia collega. Io lavoro con i bimbi invece, non con i disabili, e insegno. E insegni? Attenzione. Cosa insegni? Insegno matematica, storia, geografia, insomma, un po' di tutto. La maestra che deve, a quell'età, per quell'età, scusa, deve insegnare tutto. È una figura esatto. a tutto tondo, diciamo così, ok. Esatto. È una tuttologa. Attenzione a chi affidate i vostri figli, sappiate. Che bello essere, sono ottime mani. Che bello essere tuttologi. Dove tuttoli? Dove a tutti? Brescia. Tutti a Brescia? Tutti a Brescia. Tuttoli sì. A Brescia. Venite tutti a Brescia. Che insegno io ai vostri figli? Sì, ecco, sono magari, ottime mani. Insomma, venite tutti a Brescia, ecco. Uno certo range d'età, non è che a 40 anni uno va all'asilo e va perché voglio che mi insegni Valeria. Ma accettiamo anche i ripetenti, giusto? Ripetenti sì. Da anni, che ha bisogno di ripetizioni, chi non si ricorda le tabelline, serali, non lo so, chi non sa la capitale dell'Italia. Beh, quella non la sappiamo neanche noi, la capitale. Oddio, se ci interroga qua. Siamo messi male. Basta che portiate il grembiolino, basta che portiate il vostro grembiolino e potete entrare, giusto? Il grembiolino? I tuoi bambini non li hanno? Non li hanno già più. Saranno 10 anni che non si usa il grembiule. Come no? Io li vedo ancora. Ma saranno 50 anni che non usano più i grembiuli. Non si usano più, niente. No, io li vedevo ancora. Nelle scuole di cucina, forse. No, bella battuta, bella. Questa era bella. Comunque, brava. E avete hobby, passioni, qualcosa che vi piace? Lo sport, sì, sicuramente lo sport. Il ballo, siamo state qua a scatenarci come delle pazze. Lo sport, dai, principalmente lo sport. Che sport, diteci un po'. Fitness, io nell'ambito del fitness, dai. R-Gem, tutta l'aerobica, hip-hop, ginnastica. Cos'è? Un po' di desk e ginnastica, i grembiuli, la ginnastica. Vabbè, mio nonno. Ginnastica, si dice fitness. Fitness. Ragazzi. No, volevo saperne di più sul R-Gem lì, cos'è che si chiama? R-Gem, cos'è? È l'hip hop, è ritornato l'hip hop nelle palestre. Ok. Lanciato da degli istruttori di Milano e adesso sta sfondando in Italia. R-Gem. Fa fashion. R-Gem, che differenza c'è con l'hip hop? È sempre quello? Cioè, è sempre la stessa cosa? No, è sempre quello. Sono i passi di hip hop, si crea una coreografia divertente. Ah, dove okay, si suda, quindi è ballo, e lavoro aerobico. È un misto ballo e fitness a quel esatto, punto. Esatto. Interessante. Yes, sì. È perché a Brescia sono avanti, fanno i corsi per quelli avanti, no? Sì, non fanno i corsi tradizionali. Ma non c'è R-Gem, non lo fa nessuna palestra. Non sapevo neanche se stesse, quindi figurati. Ai ai ai, cadiamo sul ballo. Ma perché noi siamo. No, non è un Zumba? Ballo. Zumba. R-Gem alla fine è un ballo, è una deviazione dell'hip hop, diciamo. Un incrocio tra la zumba, passi latini americani e l'hip hop. Sì, ecco. Vedi che scopriamo anche cose nuove. Ti abbiamo così aggiornato. Domani mattina posso dire in giro che so cos'è il R-Gem. Ecco. Ma vai dalla Valeria, ti insegna. Anche quello. Insegna tutto. Certo. La Valeria vive di insegnamenti, non impara mai, vive solo insegnando. È brava. È un'insegnatrice. È una tuttologa. Insegna tutto. Ma Nicora, sei molto simpatico, però hai anche una bella voce. Dici? È per quello. Grazie. Che ti abbiamo preso in radio, secondo Speriamo, può essere, potrebbe essere. Bravo, complimenti, ti posso far da spalla, bene. Sì, vedi, puoi far da spalla. Ma cotta o cruda? la spalla, stasera è cotta. Facciamo cotta, sì, buona stra spalla. Cotta, molto buona cotta. C'è un vostro amico, vuol salutare? Ciao, come stai? Ti senti? Tutto bene? Senti? Siamo in due, no, siamo in tre, ragazzi. Sappiamo contare, loro due non entrano. No, voi non entrano. No, il gesto potrebbe essere frainteso. Esatto, mi sa che ha chiesto. Ho visto un gestaccio. Tu qui. Ha fatto una richiesta un po' strana. Non sento. Niente, ha fatto richieste non traducibili. Non traducibili. Dei gesti con due mani, ma. Sì, tra l'altro, gesti che ci confermerà la nostra Valeria, i bambini della sua scuola fanno sempre. Fanno questi gesti con i bambini? Più o meno tutti i giorni. Chiedi di rifarlo. Che gesto hai fatto? Che gesto hai fatto? Legge il labiale? Quello. Ai. Ti do voleva una il microfono. Il gesto del microfono. No, è vero, i bambini tuoi, tu sempre, no? Tutti i giorni. Non fanno quei gesti i bambini miei. Niente, no. Io avevo capito tutti i giorni. Altrimenti vanno dalla preside. Diretti dalla preside. Sospensione per una settimana. Dobbiamo andarlo dal preside questi. Dobbiamo andare dal preside. Va bene, allora ragazze, volete dire qualcosa? Mandare un messaggio a qualcuno? Salutiamo a tutti. A tutti, molto bene. Sì, perché sono di Salerno e quindi saluto a tutti. Giusto? No, ma a Salerno si saluta nonna, a tutti. Mi sorata. Mamma tesorata. E tutti quelli che stanno parentato. Allora, noi salutiamo a voi a questo punto. Ciao, grazie Nicola. Grazie a voi. Sei stato molto gentile, Nicola. Come sempre, un piacere. Ci vediamo in Giappone. Ci vediamo quindi domenica prossima. Per la seconda volta di Katia. Per la seconda di Katia. Sì, wow. Attenzione. E poi ci vedremo il 31. Sono già emozionato per la seconda volta di Katia. Anch'io. Emozionatissimo. Non so cosa aspettarmi. Non so cosa succederà. Neanch'io. E poi il 31. Per Halloween. In maschera. Come vi vestirete? Avete già idee? Certamente. No. Io dalla morte. Assolutamente no. Io dalla morte. La morte. Oh my God. Wow. No. La morte. Non da morte, la morte. Mi Meno male che non si veste da morto. No, non da morto, da morte? Da mortissima. Io non ho direi. Idea, assolutamente. Lei da mortadella potrebbe vestirsi. Hai due settimane di tempo per trovare. Mortabella? Ok, grazie. Beh, accetto lei... un complimento, mortabella. No, perché mortabella? Se... No, perché esatto. Io da morta, tu della. Esatto, se lei è morta, da della, tu devi vestirti. Dadello? Dadello. Dadello, da Dadello. Dadello. Benissimo, abbiamo scoperto che Katia viene da Dello. Dadello. Dello. Dov'è Dello? Dello. Dello è in provincia di Bergamo, penso, no? No, in provincia Della di Brescia. 160, Brescia. Che bassa bresciana. Bresciana. Sì. Tra Cremona Della. E Brescia. È difficile Saluto. Vestirsi da preposizione articolata, perché Dello. Dadello? Ma porto il cartello con scritto Così, Dello, sono, certo, sono Dello. Marrone. Sono Dello. Versione anche dialettale con dietro scritto Del. Dadello. Dadello, Dello, bello, bello, così si capisce. Sono molto creativa. Sì, assolutamente, Madonna interessante mia. Direi che possiamo salutare perché i contenuti diciamo che hanno Ci sono Esatto sono Spaccano, stati i contenuti spaccano filosoficamente molto alti. Quindi, come dire, anche Alberto e Piero Angela insieme si stanno vergognando della loro cultura dopo aver sentito queste parole, questi interventi. Ringraziamo. Ho letto tutti i libri però, di la bibliografia. Alberto tutti. Certo, sì, sì, tutti quelli su Pompei, Romani. Tutto? Non tutti. Non sembrerebbe, né? Beh, ma sono quotatissimi adesso gli libri degli Angela. Ti sto commuovendo. Ti sta commuovendo, assolutamente. Allora, permettiamo a Katia di soffiarsi il naso e a Valeria di fare una foto col cellulare. Noi le salutiamo, le ringraziamo e diamo appuntamento quindi alle prossime settimane. Ciao! Ciao!